Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24 e vi parla Daniele Biacchessi, Italia in controluce. Al venerdì, come ogni settimana a quest'ora, troviamo Piera Ceci con Scuola in controluce, è il nostro appuntamento fisso, il nostro focus sul mondo della scuola. Scuola in controluce. Siamo tutti fuori, stiamo cercando di sapere, raccogliere le cose necessarie ai ragazzi per mandarli a casa. Siamo tutti fuori, sì. Sono tutti evacuati i ragazzi per adesso, cioè, siamo tutti fuori, è stata una bella scossa. Così ci raccontavano alcuni insegnanti di Modena subito dopo la scossa di terremoto del 29 maggio. Ragazzi tutti fuori, molti ancora non sapevano che poi in quelle scuole non ci sarebbero rientrati più, almeno per quest'anno scolastico. 19.000 gli studenti a casa nelle zone del sisma dell'Emilia, un centinaio gli edifici chiusi, ma il numero aumenta di giorno in giorno, ci racconta Stefano Versari, vice direttore generale ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, che prova a guardare anche al futuro. È una popolazione di persone di grande tempra. Sono però oggettivamente tutti molto provati. Parlavo prima con un dirigente scolastico, guardi, oltre ad avere 7 scuole inagibili, alcune crollate, una villa del 700 in cui c'era una scuola dell'infanzia crollata, io stesso, mi diceva il dirigente scolastico, la mia casa è crollata, io vivo in macchina. Nello stesso tempo stanno lavorando in maniera determinata, molti di questi, anche come dire, da me richiesti, hanno chiesto di non essere inseriti negli esami di Stato e quindi inviati in altre aree della regione per poter rimanere ed essere presenti nel momento. La prima scossa alle 4 di notte, dunque non in orario scolastico, la seconda forte scossa in orario scolastico, le 13, le 9 del mattino, ma per fortuna quelle scuole non avevano alunni sui banchi già da qualche giorno. Lei ci ha pensato a cosa sarebbe potuto accadere se invece una delle due forti scosse fosse avvenuta in orario scolastico e con i ragazzi a scuola? Guarda, io ci ho pensato e ci penso tutti i giorni. Per chi crede vale la pena ringraziare Dio, per chi non crede vale la pena ringraziare la circostanza. Comunque vale la pena essere grati perché non abbiamo ripetuto in questa terra un dramma che in altre realtà si è creato, anche perché la morte dei bambini è sempre morte, è sempre dolore, ma è qualcosa di più, è come la morte della speranza. Che cosa vuole dire invece a tutti gli studenti di quella zona, a tutti i genitori di quella zona che non vedono l'ora comunque di ripartire nel lavoro e quindi anche nel lavoro scolastico? Sicuramente o in un edificio scolastico, o in un altro edificio scolastico, o in una situazione provvisoria, l'anno ripartirà e non è che è pensabile nessuno mettere minimamente in conto che non vi possa essere un regolare avvio dell'anno scolastico, così come ci sarà, nonostante questa situazione, una regolare conclusione dell'anno scolastico. L'anno scolastico ripartirà regolarmente, è con questo auspicio che insegnanti e studenti in questi giorni si incontrano sotto le tende in questa vacanza forzata che davvero nessuno si aspettava. Mirandola, Istituto Luosi, 4 scuole, classico, scientifico, professionale per il commercio e l'economico, 2 edifici tutti inagibili, come ci racconta il preside Giorgio Siena. Noi abbiamo chiuso il 20 e poi stavamo cercando, adesso è una delle parti più per i che non erano assolutamente agibili, ce n'erano una parte, diciamo una decina di aule, che era un corpo di recente costruzione che non aveva subito alcun danno e che i vigili del fuoco ci avrebbero probabilmente autorizzato ad utilizzare. Su quelle stavamo organizzandoci per gli scrutini, gli esami e tutto quanto. E poi dopo la scossa del 29 abbiamo chiuso tutto, quindi siamo fuori. Scuole ormai chiuse fino alla fine dell'anno, si suppone? Non c'è dubbio, sì. Adesso stiamo pensando come fare gli scrutini, per esempio, perché i registri sono dentro e quindi... Non riuscite a recuperarli? Ah, non lo so. Forse con i vigili del fuoco, non lo so. Comunque sono dentro. Qual è la situazione? Lei che sente gli insegnanti e i ragazzi, qual è l'umore? Perché la scuola è sempre un tassello fondamentale, no? Sì, certo. Ma noi abbiamo tenuto i contatti sempre via mail e poi abbiamo organizzato nel cortile della scuola un incontro, ricordo 2 giorni prima del disastro del 29, che avevamo convocato alcune classi, avevamo cominciato a fare, avevamo scelto di fare con le quinte degli incontri con gli insegnanti al mattino nel giardino, nel parco della scuola, che ovviamente non era pericoloso. E per sono studiare lì all'aperto? Sì, all'aperto, per prepararsi un po' all'esame, incontrare gli ultimi. Ecco, doveva venire una classe perché ne avevamo programmato una, sono arrivati più di 100 studenti per parlare, per stare insieme, insomma, ha funzionato molto questo aspetto del bisogno del contatto fisico, tant'è che mi sono trovato a parlare per 15 minuti agli studenti, tutti insieme lì all'esterno, per dire cosa pensavamo di fare, come avremmo potuto fare gli esami, eccetera. Ecco. Insomma, c'era in quei giorni lì c'era l'idea che potevamo uscire dall'emergenza pian piano, insomma c'era molto, poi questa botta di 2 giorni fa è stata fatale, insomma. Cosa dicono gli studenti? Vorrebbero ritornare in qualche modo a studiare, no? Perché sarebbe anche un modo per riprendere una normalità. Il bisogno di normalità è molto forte, tant'è che gli studenti sono venuti tantissimi a chiedere di recuperare i loro libri sotto il banco, insomma tanti modi, poi dovevamo tenerli lontani perché poi l'edificio non era ancora autorizzato per l'accesso degli studenti. Poi l'altro grosso interrogativo è il futuro, perché guardi, le dirò anche una cosa molto bella, che io non posso fare il nome, ma siamo stati avvicinati da 2 aziende anche importanti che volevano fare una donazione di laboratori per la scuola, e stavo parlando proprio di quello al centro di Mirandolo quando è accaduto il secondo terremoto. Volevate una scuola più bella di prima, insomma. Sì, e poi ecco, se l'avremo sicuramente sarà più bella di prima. Tanti sono disponibili ad aiutarci per avere una scuola migliore dal punto di vista delle attrezzature. Ha pensato di ricominciare a fare qualche lezione o comunque perlomeno per quelli di quinta, magari nelle tendopoli? In questi 2 o 3 giorni è stato talmente forte un po' l'impatto e la disillusione della normalizzazione che diventa difficile riorganizzarsi, anche perché devo dire un'altra cosa, io ci sono diversi insegnanti che non hanno più la casa, che sono in tenda, qualcuno è andato via, ha lasciato un numero, naturalmente pronto a rientrare al più presto. Ecco. Anche tanti ragazzi saranno nelle tendopoli. Anche, esatto, anche. Ah, l'altra cosa, ad esempio molti stranieri mi stanno chiedendo, per esempio, se faremo la qualifica o il diploma, perché stanno pensando di rientrare in patria, non so se provvisoriamente o solo se per l'estate o definitivamente. Il fantasma di San Giuliano di Puglia, i 27 bambini e la maestra rimasti schiacciati sotto le macerie della propria scuola, aleggia in tutti i racconti che abbiamo appena ascoltato e fa paura non solo a chi in Emilia ha visto venir giù anche le scuole, ma anche quanti in questi giorni ha sentito le scosse da Milano a Venezia e Bologna e ha passato la mattina a chiamare le scuole dei propri figli per sapere se erano stati evacuati, se era tutto a posto. Come fare a sapere se una scuola è sicura? È diritto dei genitori saperlo? Adriana Bizzarri di Cittadinanza Attiva. Assolutamente sì, c'è la famosa legge 241 del 90, che è meglio conosciuta come legge sulla trasparenza e accesso agli atti amministrativi nella pubblica amministrazione e quindi anche nelle scuole, per cui il genitore può, ha tutto il diritto di chiedere, e anche lo studente di farlo, anche chi lavora nelle scuole, di chiedere se la scuola, la propria insomma, ha la certificazione di agibilità statica e in generale anche quella di adeguamento sismico, però se il proprio comune è in zona sismica, e ormai abbiamo capito che oltre il 60% dei comuni italiani sono in zona sismica, e poi se ha quello di prevenzione incendi. Queste 2 certificazioni sono le principali, quindi averle è già un buon atto, diciamo. Dopodiché anche qui purtroppo abbiamo imparato da questa esperienza del terremoto che l'agibilità statica e l'adeguamento sismico non deve essere precedente al 2020. 2004, se no va sicuramente riadeguato. Nel momento in cui invece la scossa abbia in qualche modo interessato con una certa consistenza la scuola dei propri figli, come in questo caso nelle zone interessate dell'Emilia, come fare a essere sicuri se il ragazzo che torna a scuola, il proprio figlio, lo studente che torna sui banchi può essere sicuro dopo i controlli effettuati e dopo aver ottenuto l'agibilità? Ecco, no, l'importante innanzitutto è quello, verificare che la scuola non abbia subito danni, se li ha subiti anche in modo lieve, chiedere proprio il sopralluogo e far sì che i sopralluoghi che vengono effettuati, per essere sicuri che siano effettuati da personale tecnico autorizzato e così via, che venga rilasciata una dichiarazione scritta, che qualcuno si assumi la responsabilità che quello stabile è agibile, no, dopo le scosse. Quindi questa è la cosa fondamentale, perché se il genitore vede che la scuola ha subito danni, per esempio crepe, di stacchi di intonaco, di mattonelle, di pezzi di cornicioni, come abbiamo visto dalle immagini televisive, il sopralluogo non c'è stato, i figli non vanno proprio mandati. Italia in controluce termina qui questa settimana di reportage ed inchieste. Torniamo lunedì con nuove storie alle 6:30 puntuali su Radio 24.